Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ci sono storie che mentre le vivi ti chiedi: ma che storia è questa? Che sembra sia impossibile che abbiano il lieto fine. Storie in cui ci sei capitato dentro e non sai neanche perché sono capitate proprio a te. Insomma, ci sono storie che sono delle vere e proprie sfide, ma storie che viste dopo, quando la tempesta è finita, quando le puoi guardare un po' all'indietro, un po' come si fa con un quadro che sta lì appeso alla parete e decidi tu da quale distanza osservarlo. Ecco, ci sono storie che pur nel loro dolore, nella fatica che ti hanno imposto, ti accorgi che ti hanno reso migliore, ti hanno cambiata. Oggi parliamo proprio di una di queste storie. Detestando chi ti dice che il dolore aiuta a crescere, che le sofferenze ti servono per conoscere te stesso, ora mi ritrovo, vergognandomi un po', ad ammettere che è proprio così. Sembrano parole gonfie di retorica, forse lo sono, ma c'è del vero. Fuor di dubbio che il dolore ti obbliga ad analizzare la tua persona nuda e cruda, senza orpelli e senza distrazioni. Ti costringe a uno spietato faccia a faccia col tuo io, e se quello che vedi non ti piace, è affar tuo, perché è la verità. E sul fatto che è sempre meglio dirsi la verità piuttosto che una bugia, siamo tutti d'accordo, almeno in questo libro. Insomma, per 6 anni sono sparita. Sono stata solo un mortifero individuo che aspettava che passasse. Ma cosa? Cosa doveva passare? Il problema vero della depressione è che non la puoi raccontare, non la puoi descrivere. È invisibile. La depressione non è solo tristezza, è la fine. Ma come la racconti la fine? Questa pagina è tratta da un libro che sta avendo un enorme successo, proprio perché racconta la storia di una persona che è in parte almeno la storia di tanti di noi. L'autrice è in linea con noi, la conosciamo e l'amiamo tutti. Saluto subito Veronica Pivetti. Ciao Veronica. Ciao, ciao a tutti. Ma ciao, io, ciao. Guarda, io sono molto molto felice che tu sia qui con noi oggi, perché insieme noi faremo un viaggio nel tuo libro, che in parte è anche un viaggio in un pezzo importante della tua storia. Ma inizierei proprio dalla copertina. Aiutaci un po' a capire, perché come si presenta da fuori? Un titolo, Ho smesso di piangere, un'immagine in copertina con te, splendidamente sorridente, un'immagine con te sul retro della copertina, con te invece che hai uno sguardo fisso, direi congelato, quindi due Veroniche. Eh sì, quello che mi è guarda, è una buona sintesi di quello che mi è successo. Secondo me la percezione sarebbe stata che quelle foto fossero state stampate in bianco e nero, perché c'è molto bianco e nero in quello che io racconto. Però insomma va bene anche così, ecco, forse quell'azzurro e quell'arancione del titolo sono un po' troppo allegri, ma oddio, diciamo che poi alla fine il libro, secondo me, è un libro, ebbene sì, che fa pure ridere, sì. Assurdamente fa pure ridere, ma fa pure ridere perché è la sfida di cui sentivo parlare prima, ed è vero, è un termine giusto, forse abusato, ma giusto, secondo me calzante in questo caso, è stata proprio questa, cioè cercare di raccontare nel modo più leggero, più lieve e anche più, ebbene sì, divertente possibile, un momento che di divertente, credimi, non ha proprio nulla, cioè un momento veramente molto molto buio. E forse hai ragione tu nel momento in cui dici ci sono tante persone in questo preciso istante che hanno questo problema. Di questo io sono purtroppo certa, stracerta. E noi abbiamo modo di parlare, come sempre, con i nostri ascoltatori, che oggi potranno parlare direttamente con Veronica Pivetti. 800 24 00 24 se volete intervenire. Nella puntata di oggi torna in studio con me Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, anche lui ha letto il libro di Veronica. Intanto ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E devo dirti, Veronica, che Alberto ha pensato che il tuo libro ci avrebbe dato una splendida occasione di biblioterapia. Sì, io credo che col termine di biblioterapia, in termine tecnico, si intende l'indicazione e la lettura di un libro in particolare per un paziente che nel libro può trovare parole che non riesce a dire a se stesso, e nel momento in cui le trova invece proprio oggettive, lì stampate su una pagina, può riconoscere parole che ha dentro di sé ma che non emergono. Tra l'altro, nel caso del paziente depresso, una delle fatiche enormi che il paziente fa fa è proprio questa, è quella di essere, sentirsi travolto in balia di uno stato emotivo che lo annulla, lo rende zero su tutti i fronti, non riuscire a dire che cosa prova, che cosa sente, cosa che tra l'altro diventa irritante anche per chi gli sta vicino, perché sembra impossibile che tu ti trovi di fianco una persona che funziona proprio in un modo così basso e non riesce nemmeno a raccontarsi. Ed ecco che un libro così effettivamente fa fare un percorso straordinario a chi è nel problema o lo sta sfiorando, gli fa vedere molte azioni, molte cose concrete, ma anche molti pensieri su quelle azioni. E poi ci sono parole che descrivono quello stato emotivo in cui ti puoi rispecchiare e riconoscere, e tutto questo alla fine può rivelarsi davvero terapeutico. Veronica, tu nel tuo libro dici che stare, insomma, il paziente, la persona depressa è veramente una persona difficile, con cui è difficile avere a che fare, è difficile starle accanto, è difficile sostenerlo. Io intanto sono molto contenta di quello, delle parole che ho sentito dal professore, perché non nascondo che un pochettino lo scopo di questo libro era anche questo, cioè io l'ho scritto per due ragioni, anzi per tre: una, che me l'hanno chiesto e quindi diciamo che è partito tutto da lì. In realtà mi avevano chiesto un libro su tutt'altro, ma io ho detto: guardate, io ho una storia che secondo me, sembra paradossale quello che dico, ma è una bella storia. Io penso fondamentalmente che questo libro abbia una storia forte, e insomma chi più di me lo può stabilire dal momento che ci sono stata a mollo per 6 anni. Dopodiché ho detto: credo, spero anzi, che una storia così possa servire, perché tanto per questa ragione si fanno le cose, perché possano servire a qualcuno, mica solo a noi, perché sennò sai, è sempre un po' arido il meccanismo della comunicazione. In questo caso, se per caso sono riuscita a fare una cosa che ha creato realmente uno scambio con le persone, almeno mi pare vero, sono veramente contenta. Se questo libro può servire, evviva, un grande risultato è stato portato a casa, questo sicuramente. Io sono certa che questo libro sia proprio utile alle persone che si trovano in una condizione di difficoltà in prima persona, alle persone che stanno accanto a delle amici, guarda, familiari. Quello è un capitolo dolorosissimo, è un capitolo reale, però cioè è inutile che noi cerchiamo tutti di far bella figura, perché tutti nella vita giustamente anche vogliamo fare bella figura, cioè vogliamo presentarci al massimo, vogliamo essere gradevoli, vogliamo essere attraenti, e non solo noi, che poi invece magari appunto siamo affetti da una malattia, perché voglio precisarlo, è una malattia la depressione, e non solo quelli che ce l'hanno, ma anche quelli che ci stanno vicini vorrebbero essere bravi, pazienti, accoglienti, e delle volte non ne possono più, per cui buttiamo via tutti questi buoni propositi che in realtà poi non ci aiutano e non aiutano neanche la persona che abbiamo vicino. Accettiamo le nostre misere debolezze, perché siamo esseri umani e ce le abbiamo, e facciamo i conti con la realtà, perché poi sai, io l'ho avuta per 6 anni, ma 6 anni vuol dire un giorno dopo l'altro, i giorni sono fatti di minuti, cioè è veramente dura. Perché raccontai in un libro, te lo un sacco di gente mi ha detto: ah, l'ho letto in 1 o 2 giorni. Bene, io sono molto contenta, però quelli sono 6 anni di vita, e 6 anni sono veramente tanti. Allora Veronica, direi, se tu sei d'accordo, cominciamo dall'inizio, perché succede qualcosa all'improvviso che ti fa perdere il controllo del tuo corpo e delle tue emozioni. Si rompe un ingranaggio e tu entri in una spirale dalla quale ti sembra di non riuscire più a venirne fuori. Era il 14 giugno del 2002. Risultato: un disastro. I miei valori tiroidei erano molto simili al gioco del lotto, numeri a caso più il jolly. Il livello di ipertiroidismo a cui ero arrivata mi metteva di diritto fra quei malcapitati che da un momento all'altro avrebbero potuto fare il botto. Il mio primo pensiero è stato: che culo, l'ho scampata. Il primo pensiero di Giordana è stato: oddio, sta morendo. Per la cronaca, ecco alcuni sintomi dell'ipertiroidismo. Dimagrimento. Ne ho già parlato, mangiavo e dimagrivo. Divertente, ma sospetto. Intolleranza al caldo, sudavo anche da ferma. Tachicardia assordante. Diarrea, sempre. E lì ho capito che ne uccide più la stitichezza che la spada, perché ero circondata dall'invidia generale. Nervosismo. Tremore alle mani. Irregolarità mestruale. Il gioco della tombola sarebbe stato più scientifico. Occhi sbarrati o sporgenti. Non è successo, ma ho passato intere mezz'ore a fissare lo specchio, temendo di sbulbare lì per lì. Dulcis in fundo, crescita del gozzo. Non credo ci sia bisogno di spiegare quanto mi atterrisse quest'ultima possibilità. Quindi, la mia tiroide lavorava troppo. Dovevamo assolutamente farla rallentare. Ecco l'ingranaggio impazzito. Tra l'altro, Veronica, già sentendo questa, come tu descrivi, i sintomi dell'ipertiroidismo, io ti dico già che ogni puntata in cui parlerò di tiroide rifarò rileggere questi sintomi, perché nessuno più di te è riuscito a spiegarli in modo assolutamente puntuale, ma divertente, perché la forza del tuo libro è che racconti la verità, una verità dolorosa, ma leggendo ci si sente in qualche modo sollevati. E beh, per forza, perché anche perché se tu tutto questo lo scrivi pure in maniera pallosa, pensa che tragedia. Cioè, voglio dire, almeno per quel che si può fare, cerchiamo di riderci un po' su a posteriori. Cioè, usiamola questa cosa deve servire. Questa cosa che è successa a me deve servire non solo a me, e a me è servita moltissimo, perché comunque mi ha anche insegnato ad avere a che fare col dolore, cosa che io, avendo avuto una vita molto fortunata fino a quel momento, non avevo avuto modo di fare. Invece col dolore mi ci sono dovuta misurare, ma quindi, come si diceva prima, anche tutti gli altri, quando scopriranno di essere ipertiroidei, e a me, lo voglio dire, purtroppo su 10 persone 7 sono donne, purtroppo è una malattia che colpisce moltissimo le donne, ecco, se trovate sintomi del genere, subito un bel controllino, subito delle belle analisi. E lo dice una che se ne fregava della salute, devo dire, me ne frego ancora, una volta uscita, cioè non sono certo, beh, ipocondria non so neanche come si scrive, cioè, per dire, proprio non è una cosa che mi appartiene, però sono una molto disinvolta da questo punto di vista, lo sono stata forse troppo, sono arrivata totalmente ignorante nei confronti di qualunque tipo di malattia, tanto che la tiroide io manco sapevo cosa fosse, cioè lo so, c'è da vergognarsi, forse sì, ma non sapevo cosa fosse, ed è quella che è saltata, e una volta rotta quella sono stata curata male su quella. E oltretutto quello non è solo una ghiandola che noi abbiamo, una ghiandola che controlla un sacco di cose che hanno a che fare, per esempio, moltissimo con l'umore, per cui ti sbalzano totalmente. Non contenta di questa cosa, grazie alle cure sbagliate che mi hanno fatto, mi è scattata una profonda depressione da farmaci, per cui io avevo una specie di depressione polifonica per la tiroide, per i farmaci, cioè ero un supermercato di guai. E tra l'altro nel libro, secondo me, poi alla fine questi due percorsi che si incrociano, sì, nell'ultima parte del libro vengono anche raccontati in modo un po' separato, cioè sistemato un po' il pezzo rotto, la Veronica donna riprende in mano anche tutta la parte più, certo, legata alle emozioni, e fa proprio un percorso che è durato molto più a lungo della cura della tiroide. Esattamente, infatti in realtà io racconto 6 anni e i primi 3 sono stati proprio quelli mostruosi, micidiali, dove oltretutto io, come persona ignorante in campo di malattie e di medicine, ero totalmente spaesata da quello che mi era successo. Cioè io mi guardavo e dicevo, ma quella lì chi è? Cioè il vero problema è che se tu non hai dimestichezza, e grazie a Dio non avevo dimestichezza e non lo auguro a nessuno ovviamente di averla, però diventi improvvisamente una altra persona, e tutto questo non ha nessuna logica, non ti riconosci e quindi anche gli altri non ti riconoscono, ma tu per prima ti guardi e dici, ma quella che chi è, che vuole da me? Io non ho mai sentito così profonda, anzi l'ho sentita solo lì, l'estraneità al mio corpo, alla mia pelle, cioè era una sensazione quasi di pazzia. Uno diceva, vabbè, sono pazzo, evidentemente sto diventando pazzo, ma perché sto diventando pazzo? Cioè non ci sono mai risposte, no? È una situazione che ti lascia priva di risposte. Intanto voglio leggerti il messaggio che ci manda Gabriele, ne stanno arrivando molti per te, Veronica, perché piaci, sei simpatica, ti ringraziano per aver tirato fuori questo tema di cui molte persone hanno timore a parlare, per cui insomma tantissimi messaggi al 349-238-6666. E Gabriele mi scrive, ciao Nicoletta, anche io ne sono uscito dalla depressione dopo 3 mesi, tempo breve per fortuna, ma è stato un inferno anche per tutti i sintomi fisici e i rischi di pazzia. Ora ci rido sopra e mi sento molto più forte. Andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano perché c'è Gian Andrea. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, saluto te Nicoletta, ti ringrazio e saluto Veronica che ho conosciuto tanti anni fa, lei non si ricorderà, ma un abbraccio forte. Premesso il fatto che domani mattina vado a comprare immediatamente questo libro, sì. Io ho vissuto 5 anni con una compagna della quale ero innamoratissimo e questa persona era più o meno nelle stesse condizioni e una delle cose che io ricordo perfettamente è una sua frase ricorrente, oltre ai suoi comportamenti, dove lei sosteneva di fatto di sentirsi sempre inadeguata, inadeguata a qualsiasi cosa. Quindi ascoltando Veronica ricordavo questi passaggi. Io di fatto, non per togliere il protagonismo a quello che state dicendo, ma di fatto c'è il coprotagonista a queste storie, che è il compagno o la persona che ti sta a fianco, che vive delle situazioni davvero dove non sa che cosa fare e arriva al punto di essere completamente svuotato, io così ero, sì. E a un certo punto ho detto, tesoro mio, io non ce la faccio più, cioè sono arrivato a un punto proprio di svuotamento totale, io ero assolutamente ignorante perché il mio campo professionale non è medico, quindi è tutt'altro, e non sapevo più che come prendere le giornate, cioè era una cosa imbarazzante sotto tutti gli aspetti. Veronica, Gianandrea ci racconta una cosa assolutamente vera, tu però c'è una, se vogliamo, una coprotagonista nel tuo libro che è come la tua no? amica Giordana. Ce ne sono due di coprotagonista, una è la malattia e l'altra è la persona che ho avuto vicino, un'amica che è stata direi più che esemplare, nel senso che ha condiviso con me questo cammino, ecco, diciamolo in maniera sembra un po' pretesca, ma insomma di fatto è successo questo, abbiamo veramente condiviso il tempo, lo spazio e i guai e anche grazie a Dio poi il momento della guarigione. Io Gianandrea lo capisco benissimo, nel senso che infatti il problema è che questa malattia non dà solo al malato il senso di impotenza, anche a chi gli sta vicino dice io cosa posso fare. In realtà io credo che fondamentalmente, allora intanto stiamo parlando di una malattia, quindi una malattia va curata, quindi ci vogliono i medici, quindi ci vogliono gli psicofarmaci, secondo me, io li sosterrò sempre, ovviamente dati e assunti con criterio, con intelligenza, con calma, con tutto, però bisogna curarle le cose, non è, cioè io vorrei che si fugasse la sensazione che la depressione sia tristezza, dice sai sono un po' triste, no, quello va bene, può capitare, sono un po' giù, può capitare, e sono stati d'animo, e questa è una cosa, la depressione è una malattia, è un altro mondo, quindi non confondiamo, quindi essendo una malattia ha bisogno di cure che vanno prese molto seriamente. È vero anche che per me è stato fondamentale avere almeno una persona che mi credeva, perché è tutto lì, cioè il vero problema di questa cosa è che tu, siccome non la riesci a raccontare, tu stesso non sai come stai, sai solo che stai male, ma è un po' poco, è tutto, ma è un po' poco da dire, devi avere di fianco una persona che si fida di te, sì. Cioè ti crede, dice credo che tu stai così, perché tu stai così, adesso lo troviamo, abbiamo cambiato 250.000 medici, io fra medici, psicologi, psichiatri ho fatto veramente hai un'agenda da essere benessere, sì, praticamente. Sì, esatto, guarda, sono l'ottica ideale da questo punto di vista, però devi veramente avere di fianco una persona che ha fiducia in te e che soprattutto che ha tanta pazienza, che ti sopporta, perché ci sono dei momenti in cui tu vuoi morire, forse anche quello che sta di fianco a te non ne può più di te, dice senti, cioè mai un sorriso, ma non è che mai un sorriso, giorni e giorni e giorni e giorni, i famosi minuti di cui parlavo prima in cui io piangevo, stavo a guardare il muro, cioè questo succede, sono cose terribili, terribili. Allora, ne parliamo insieme anche con una domanda, uno stimolo per voi ascoltatori che ci potete seguire da casa, 800 24 00 24, che ci facciamo suggerire da Alberto Pellai. Veronica, oltre che ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, è anche medico, quindi noi abbiamo 3 cose in uno, un concentrato. Alberto? Ma io credo che sia una bella riflessione da fare insieme oggi. Quanto voi ascoltatori ritenete importanti che personaggi pubblici, così amati e popolari come Veronica, Veronica, appunto, raccontino e condividano con noi le loro storie di fatica e dolore. Se avete letto il suo libro, in che cosa vi ha aiutato? Come magari altre storie di personaggi famosi che hanno raccontato in parte la loro fatica sono riusciti a entrare nel vostro percorso di vita e un po' magari l'hanno migliorato, cambiato, vi siete un po' rispecchiati anche nelle loro vicende. Io personalmente credo che testimoni e testimonial così importanti come Veronica, anche così amati e popolari, diano davvero un enorme contributo nel momento in cui mettono a disposizione la loro storia, la loro fatica. In fondo, Veronica, scusa, benedetta questa tiroide, no? Guarda, alla fine ovviamente ti dico sì, alla fine ti dico sì, perché io adesso sono chiaramente un'altra persona, nel senso che intanto è fondamentale, sono una persona più consapevole e credo che la consapevolezza sia veramente l'arma, la chiave per aprire tutte le porte, cioè noi dobbiamo conoscerci, non c'è un cavolo da fare. E allora noi proveremo, Veronica, devo dare la linea ai mercati, proveremo proprio partendo dal libro di Veronica, e abbiamo l'occasione di averla con noi fino alla fine della trasmissione, di smuovere qualche cosa, di raccontarci anche come ci sentiamo, come si può stare vicino ad una persona che in questo momento sta attraversando un periodo difficile. Le vostre storie all'800240024, il racconto che più ci colpirà, che colpirà Veronica e Alberto, riceverà a casa il libro proprio di Veronica Pivetti, Ho smesso di piangere, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it. Essere e benessere. Eccoci qua, in linea con noi abbiamo Veronica Pivetti. Veronica, ci sei, vero? Certo che ci sono. Stiamo parlando del suo libro, Ho smesso di piangere, edito da Mondadori. E Veronica, c'è un messaggio molto lungo, te lo stringo, che però secondo me a me farebbe piacere, penso che faccia piacere anche a te. Un ascoltatore mi scrive: se Veronica avesse saputo quante persone le vogliono bene durante gli anni della sua depressione, sarebbe sicuramente riuscita ad uscirne prima. Perché, ecco, perché io ho anche dei messaggi che ci stanno arrivando, veramente gli ascoltatori di Essere Benessere sono molto in sintonia con te. Ah, che bello. E intanto grazie a quel signore che diceva la cosa così carina. Io, ma guarda, io tra l'altro poi lo sapevo, io era un periodo ovviamente per me buio perché stavo veramente malissimo, però stavo lavorando una fiction tra l'altro anche importante, insomma una cosa grossa eccetera, e constatavo anche siccome avevo già fatto varie cose, avevo già fatto commessi, ovviamente avevo già fatto Sanremo, avevo fatto Viaggi di Notte, avevo fatto un po' di cose che erano piaciute, quindi io sapevo, però guarda, paradossalmente ti dico, è ancora più drammatico perché in più hai anche una vita che grazie a Dio con delle attenzioni, cioè io non avevo una vita sciagurata, avevo una vita che era piena di belle cose, e nonostante questo, perché ripeto, la depressione non è uno stato d'animo ma è una malattia che altera il tuo, ti altera proprio realmente, io ero chimicamente alterata, quindi nonostante tante cose belle io non riuscivo a godere di queste cose belle. Abbiamo chiesto a voi, e ci state rispondendo intanto, quanto le storie faticose di personaggi noti possono aiutarci a prendere coraggio se ci troviamo ad affrontare la stessa fatica. 800 24 00 24, Alberto, ti do rapidamente la parola perché poi ci sono i nostri ascoltatori che vogliono parlare con Veronica, e abbiamo Licia da Udine, Bruno dalla provincia di Trento, Raul dalla provincia ancora di Udine, a cui io voglio dare la linea. Ma riflettevo sul messaggio di Francesco che dice a un'attrice così popolare: se lei avesse saputo quanto è amata ne usciva prima. Ma in realtà nel libro Veronica poi racconta molto anche come un mestiere così in realtà diventa una sorta di doppia trappola quando attraversi il tunnel della depressione, perché ti viene richiesto di indossare una maschera che è quella dell'amabilità, dell'essere sempre a disposizione. Provate a immaginare, lei lo racconta bene, cosa vuol dire dover baciare appassionatamente un attore sul set quando hai davvero la notte dentro. E l'altro aspetto è che tutti ti guardano quando tu vai in giro, proprio perché sei famoso, tutti ti guardano e tu hai proprio questa sorta di contaminazione chimica che mandi in giro, perché sei diventato più brutto oppure semplicemente ti vedi più brutto, hai dentro così tanta tristezza e lo sguardo dell'altro quasi ti condanna ancora di più a soffrire ulteriormente di quello su cui non hai controllo. Veronica? Sai cos'è? il problema è questo, è che la gente, giustamente, cioè tutti abbiamo un sacco di guai, un sacco di anche di cose belle, ma insomma abbiamo la nostra vita che ci riempie a sufficienza la giornata. Non puoi sperare, non puoi pretendere che il resto del mondo si faccia carico ovviamente dei tuoi guai, delle tue sofferenze, dei tuoi momenti bui, dei tuoi momenti neri. Però è anche vero che il personaggio pubblico, soprattutto nel mio caso, per esempio, io sono un'attrice principalmente di commedia, la gente, infatti il titolo di questo libro, sapete quale doveva essere? Fino all'ultimo era quello, poi me l'hanno cambiato mannaggia sul finale, era "Torni presto a farci ridere". Ma sapete perché si chiamava così? Perché il primo medico che mi ha visitato, dal quale io sono andata piangendo, disperata, appena ammalata, quindi ero proprio sgomenta, mi disse: guardi, faccia questo, ed erano tutte cure sbagliate, per inciso, e finì dandomi una bella manata sulla spalla dicendomi: su, torni presto a farci ridere. Io lo volevo ammazzare, uccidere, ma a mani nude, cioè io avrei potuto macchiarmi di un omicidio, perché e ho detto: questo non ha capito veramente niente. Dico, e quante volte io ho trovato questo, ma perché? Perché l'immagine, che però ti posso dire, allora, se la gente si aspetta da me che la faccia ridere, è giusto, perché io cosa, il mio rapporto col pubblico è questo, io quello che a me piace nella vita è fare il mio lavoro, perché diverto, a me mi piace divertire, quindi dalle persone me lo aspetto che si aspettino questo, da un medico no, cioè da un medico io mi aspetto che mi ascolti, che mi voglia conoscere realmente, non che voglia conoscere il fatto che io sono un'attrice brillante, perché chi se ne frega, in quel momento sono una malata. Assolutamente. Senti, mi stavo chiedendo, Veronica, se mai tu questi i medici li bistratti un po', no? Nel tuo libro, non vengono proprio fuori benissimo. Hanno loro me per primi, hanno cominciato loro. No, stavo pensando in ogni modo, perché poi questi dicono: adesso se poi stai male, quando andrai da un medico io faccio le corna, uno dice, poi questa scrive un altro libro. Ma infatti io sono sicura che a me non mi cura più nessuno, anzi Alberto, la prego. Io ti tengo Alberto, io ti tengo bene Alberto, va, ecco. Che così andiamo a Udine. Licia, buongiorno. Buongiorno signora, io condivido pienamente quanto ha detto la signora Veronica, dalla depressione, dagli attacchi di panico se ne esce, si guarisce, non basta l'affetto di chi ci è vicino, ci vogliono i farmaci. Io questo messaggio l'ho ricevuto 20 anni fa, forse più, guardando la trasmissione Maurizio Costanzo Show. Allora non si parlava di depressione postparto, ma anche 25 anni fa, ma una signora testimoniava quello che io provavo. Ho detto: io sono questa, io andrò a curarmi dove è andata questa signora. Ho eseguito alla lettera quanto mi avevano indicato i medici, ne sono guarita e da allora voglio essere io nel mio piccolo mondo una testimonianza di solidarietà per dire alle persone: si guarisce e fidatevi dei medici e i personaggi pubblici come Veronica, come allora quella signora di cui non ricordo il nome, facciano pure opera di informazione, perché certo, è l'informazione che manca. Grazie Licia. Bruna dalla provincia di Trento, buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta, e saluto la signora Pivetti. Saluti anche Alberto, su Bruna. Sì, anche Alberto. Dai, su. povero Alberto, adesso lo dobbiamo tenere buonissimo Alberto, non certo, si sa mai. Condivido, ha ragione. Io ho vissuto le situazioni della signora Pivetti in maniera contraria, con un ipotiroidismo. Allora, questo ipotiroidismo io sapevo benissimo cos'era la tiroide, ma mai avrei pensato. Non come Veronica che non sapeva. No, ma questo non assolutamente. Io sono un po' una donna curiosa, per cui però non avrei mai pensato che potesse accadere a me quanto è accaduto anche alla signora Pivetti. Così io accusavo determinati sintomi, come quelli della signora Pivetti, e mi sono scaturiti dopo essere ritornata dal mare. Quando andavo dai medici, non tanto dagli endocrinologi, però io ti dicevo che avevo tutti questi dolori, tutte queste... Cosa le dicevano? Mi dicevano insomma, che era impossibile, ecco, per la mia età, che era non stanchezza. È una cosa simile a quella di Veronica, no? Torni a farci ridere, a noi che siamo persone assolutamente non pubbliche, cose ci dicono: vabbè, dai, su, si tiri su. Alberto, tira fuori il medico. Bruna, un ipotiroidismo e ipertiroidismo possono avere gli sintomi uguali? No, in realtà i sintomi sono esattamente opposti, ma quelli che racconta Veronica nel libro sono in realtà poi sintomi di ipotiroidismo, cioè lei nel momento in cui ha avuto la prima sfasatura associata all'ipertiroidismo poi curata, è entrata in ipotiroidismo, a quel punto tutto ha funzionato molto più lento e molto più rallentato, e questo il racconto che poi fa è un racconto di basso tono emotivo, poi di tristezza e franca depressione, fortemente sostenuta e potenziata da una condizione di ipotiroidismo. Veronica, vero che è preparato? Ma Alberto è fantastico, io quasi quasi, guarda. Poi ci diamo l'indirizzo e mi vengo a fare la visita. Perché è perfetto, perché ne sa di medicina ma anche di psico, no, quindi è il nostro uomo. Posso dire una cosa? Sai perché è bello parlare con lui? Perché non è per niente, passatemi questo termine, un trombone. Allora, io sto facendo una battaglia personale contro i medici tromboni, perché io sono stata circondata da medici che si mettevano sul piedistallo e mi spiegavano cosa avevo. Prima non mi ascoltavano quando io gli dicevo cosa avevo, però me lo dicevano loro cosa avevo, e non ci beccavano mai, perché poi non mi hanno mica curato, ma mi hanno curato due medici sui 200 che ho passato. Allora, perché io dico, la signora al telefono prima ha detto fidatevi dei medici, io dico, allora, intanto fidatevi delle persone che ascoltano, se sono medici meglio, però io, siccome io ero una persona con una cieca fiducia, cioè io di solito quando vado da una persona che dice che sa fare un mestiere ci credo, sì. Perché secondo me è cretino dire che sai fare un mestiere se poi invece non lo sai fare, perché fai la figuraccia, no? Ecco, se però in questo caso io sono il paziente, tu sei il medico, la responsabilità com'è? Centuplicata, perché io vengo con una tale debolezza, tu sei quello Luda che proprio. mi aiuterà a vivere, ecco perché la responsabilità, e non a caso c'è un giuramento di Ippocrate che un pochettino dovrebbe aver significato. Ecco, quello per cui Alberto cioè perché è bello sentirlo parlare? Perché parla senza dare lezioni, è un signore che ascolta, ha letto molto carinamente, io lo ringrazio, il mio libro, e dice, ma succede questo, quest'altro. Non si è offeso, perché io me la sono presa con certi medici, e così c'è il dialogo famoso, che è quello che ci permette di avere un minimo di rapporto, perché io lo dico anche nel libro, noi non siamo scemi, siamo malati ed è diverso. Non siete onnipotenti. Quindi... Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Alberto sta gongolando, ma ritorniamo subito dopo insieme. Abbiate fede. Essere e benessere. Ecco, secondo me il cane è la persona che ci permette di essere veramente umani nel senso più nobile del termine. Quella stronza di depressione mi aveva fatto perdere di vista tutto questo e mi aveva privato anche di alcune fra le più elementari gioie della vita, per esempio le passeggiate. Ogni volta che io e Arpo andiamo a passeggio c'è fra di noi un filo diretto di comunicazione che ci mantiene in contatto. Contatto mentale, ovvio. Lui mi sente e io sento lui. Così ci monitoriamo a vicenda, minuto dopo minuto. Certo, qualche volta lo faccio incazzare perché so che non ama entrare nei negozi che ci spezzano il ritmo della camminata, ma pure lui mi esaspera con tutte quelle pisciatine ogni mezzo metro. Ma tant'è, lui sa quando deve mettersi il cuore in pace, aspettare che io sbirci qualche vetrina, e io so quando proprio non si può fare a meno di usmare quella cacca o di sfrucugliare quell'erba, e come due vecchi coniugi aspettiamo pazientemente che l'altro abbia fatto quello che deve. Ma a differenza di quasi tutte le unioni matrimoniali che conosco, fra me e lui non c'è stanchezza. Veronica e Arpo. Questo è magnifico. Come? Questo è magnifico. Sì, vabbè, ma Arpo è... Adesso io di cani ne ho due. Premetto. Sì, perché una l'hai preso al canile. Uno preso in corso di depressione, sì. Come l'hai chiamato? L'ho chiamato Neo, come il protagonista di Matrix, non perché io ami Matrix, anzi forse rendendomi impopolare dirò che è un film che non mi ha mai scucito nulla, non mi è mai interessato più di tanto, però Neo nel film è il prescelto, e lui, siccome l'ho preso in un canile di 400 cani, ce n'erano 400, ho preso lui, è sicuramente il prescelto, in qualche modo mi ha scelto lui anche, ed è stato anche quello un momento importante, per esempio, della mia malattia. Io sono andata in un posto buio, oscuro, e io avevo il buio dentro e sono andata in un posto veramente molto buio e molto triste, e in qualche modo anche questo per fortuna è avvenuto, così adesso lui sta sui divani, che forse gli piace di più rispetto a dove stava prima. Senti, Veronica, abbiamo letto questo pezzo, questo estratto, si dice così, del tuo libro adesso, ad Angelo Vaira, esperto del comportamento del cane, agevolatore del rapporto uomo-cane, autore di un libro che, se non hai ancora letto, ti consiglio di leggerlo, Dritto al cuore del tuo cane. E Angelo in linea con noi. Angelo. Buongiorno. Quello che racconta Veronica di questo rapporto come di due vecchi coniugi è un rapporto che ben conosciuto da chi vive accanto ad un cane, no? Nel caso di Veronica 2, come piacerebbe a me. Non c'è stanchezza e il cane, devo dire, che ha un ruolo molto importante. Sì, ha un ruolo molto importante per tanti versi. Nel caso di Veronica è stato quello di farle vivere la passione. Mi sentite? Sì, ti sentiamo un po' a spizzichi e bocconi, però ti sentiamo, vediamo. Ok, ecco, dicevo che nel caso di Veronica, che saluto, è stato un modo di condurre la passeggiata in modo diverso. I cani, se le persone sono sufficientemente aperte, perché qui c'è una cosa importante da dire, nella sua depressione Veronica, in realtà forse è riuscita a toccare delle corde che spesso le persone non riescono a toccare quando stanno bene, cioè spesso le persone si muovono in superficie e non riescono ad incontrare il cane laddove si dovrebbe incontrare, cioè io ho scritto questo libro che si chiama Dritto al cuore del tuo cane proprio perché è lì, è al cuore che bisognerebbe andare. E capita di fare delle passeggiate così come le descrive la signora Pivetti quando si è sufficientemente aperti, quando si è pronti ad aprire questo stato di empatia con il cane, ed è anche uno stato di empatia che non stanca. Ecco perché quando si instaura una relazione corretta non si diventa mai coniugi stanchi, no? Da questo punto e infatti vista. Veronica, tu racconti che c'è stato un momento in cui insomma anche Arpo non ti dava più emozioni, non come, avevi ma neanche... Il problema è che la vita non mi dava più emozioni, certo. Mi devi credere, è stato un capitolo difficile da scrivere, quello del libro, perché quando io mi sono trovata a scrivere che guardavo il mio cane, allora avevo solo Arpo, che è il primo, quello che sta con me da 11 anni e mezzo ormai, e avevo solo lui, c'è stato un momento in cui io, non provando sentimenti, non provando emozioni nei confronti di nulla, di me anche non li provo, nei confronti proprio della vita, lui stesso l'ho incominciato a guardare e ho detto: ma questo che vuole da me? Che è una cosa che adesso io sto dicendo questa frase e mi viene un groppo, cioè non ci posso credere. Questo è la depressione è qualcosa che ti toglie totalmente la libido, ma per libido io non intendo il sesso, non ci arrivo manco al sesso, proprio facciamo che non lo tocchiamo come argomento perché quello è proprio in una bara va a finire, ma la libido proprio della vita, la libido di mangiare qualcosa che ti piace, di godere di una buona ventata d'aria, di appunto di farti da passeggiata col cane, ecco, tutto quello è stato assolutamente azzerato, è stato distrutto. Poi distrutto in realtà no, perché l'ho ritrovato ovviamente una volta passata tutta la depressione, però è questo che è stato drammatico. Io non posso credere di essere stata così con questo cane, eppure lo sono stata, per fortuna. Ovviamente certo, lo accudivo, gli davo da mangiare, lo portavo a far pipì, ma erano tutte cose estremamente sindacali, fatte col contagocce, cioè questo è anche un indicatore di quanto tu avevi disinteresse per tutto, per tutto. Raul dalla provincia di Udine, o Raul, non so mai come si dice, Veronica? La seconda che c'è Raul. Raul, sì, mi scusi. Buongiorno, io sono un po' bestia sugli accenti. Buongiorno non anche solo. Alla signora Pivetti, grazie anche per il libro. Io sono intervenuto perché volevo mettere allerta a tutti gli ascoltatori, in quanto amici di persone depresse, tristi o senza stimoli, che l'atto finale, se non curate e aiutate in tempo, è la perdita della vita. Questo è quello che è capitato a me come amico di una persona che non ce l'ha fatta più e se l'è tolta. In conseguenza bisogna pensarci bene quando si vede una persona che sì. Triste, è difficile da ovviamente capire, però qualche campanellino magari. Quindi... devo sempre stare allerta. Bravo, hai perfettamente ragione, ti do del tu, scusami, diamoci del tu che va bene uguale. Io volevo dire anche questo, se tu hai finito il tuo intervento volevo precisare una cosa. Sì. No, volevo dire questo, io lo scrivo anche nel libro e siccome queste sono parole, adesso noi stiamo facendo una chiacchierata estremamente piacevole e gradevole, sono felice di farla, però io ho anche scritto delle cose molto pesanti, mi rendo conto, c'è da ridere in quel libro e c'è anche da piangere probabilmente, nel senso che io ho scritto, ed è purtroppo una cosa che dico, io ho sperato di morire a un certo punto. Sì. E mi dispiace molto che ci sono stati dei giornali che hanno ripreso il titolone "Volevo morire". No, ecco, queste sono le cose scandalistiche che trovo vergognose. Sì. Detto questo, invece, adesso noi stiamo parlando in un ambito assolutamente evoluto e quindi è giusto, e secondo me è giusto che io dica tutta la verità come l'ho scritta, del resto. Io ci sono stati veramente dei momenti in cui ho attraversato la strada lentissimamente sperando che qualche guidatore distratto mi pigliasse sotto, e vi giuro che io la vita la amo molto, però la depressione ti dà anche questo, ti può dare anche questo, e Raul ha ragione a dire che poi ci sono anche delle fini tragiche per tutto questo. Quindi, allora noi dobbiamo ascolto, Veronica, molto ascolto, un libro da leggere, "Ho smesso di piangere", di Veronica Pivetti, con il bollino blu anche di Alberto Pellai. Un bacio Veronica a voi, un saluto ad Angelo Vaira e al nostro grande Alberto Pellai.